Terzo anello ad alta voce, Lord Jim, di Joseph Conrad. Fu qui che rimasi prigioniero per 3 giorni. Mi sussurrò Jim in occasione della nostra visita a Rajah. Ci stavamo facendo lentamente strada attraverso una marmaglia di dipendenti intimoriti che si ammassavano nel cortile di Tunku Alang. Un posto lercio, non è vero? In quel momento giungemmo davanti a Rajah e Jim divenne estremamente grave e cerimonioso nei confronti di colui che lo aveva sequestrato. Oh, aveste visto che scena! Mi viene da ridere se ci penso. Tuttavia ne fui impressionato anch'io. Il vecchio e famigerato Tunku Alang non poteva dissimulare la sua paura. Non era un eroe, nonostante tutte le storie che amava raccontare sulla sua avventurosa gioventù. E contemporaneamente c'era un'ansiosa fiducia nell'atteggiamento che aveva verso il suo ex detenuto. Notate, Jim era oggetto di grande stima persino nei luoghi in cui era più odiato. Ne approfittò, per quanto potei capire di quella conversazione, per fare un discorsetto al sovrano. Alcuni poveri abitanti del villaggio erano stati assaliti e rapinati mentre si dirigevano alla casa di Doramin con qualche pezzo di gomma o di cera d'api che volevano scambiare con un po' di riso. È stato Doramin a rubare, proruppe il Rajah. Una grande furia pareva agitare quel corpo vecchio e fragile. Si contorceva terribilmente sulla stuoia, gesticolando con mani e piedi e scrollando l'intricato cespuglio della sua zazzera. Era l'incarnazione della rabbia impotente. Tutti intorno a noi si vedevano occhi sbarrati e mascelle pendule. Jim cominciò a parlare. Era freddo e risoluto, e per qualche tempo si soffermò sull'esigenza che a nessuno si dovesse impedire di procurare onestamente il cibo per sé e per i propri figli. L'altro era seduto, come un sarto al tavolo di lavoro, con le palme sulle ginocchia e la testa bassa, e fissava Jim attraverso i capelli grigi che gli cadevano fin sugli occhi. Quando Jim tacque, ci fu un grande silenzio. Pareva che nessuno più neppure respirasse. Nessuno osò emettere il minimo suono fino a che il Rajah non diede un debole respiro e alzando gli occhi disse velocemente, scuotendo la testa: «Ascolta, mio popolo, basta con questi trucchi!» Questa sentenza fu accolta da un profondo silenzio. Quindi, mostrandomi un punto nel lato settentrionale della staccionata, dove diverse tavole erano rotte, lì è dove ho scavalcato il terzo giorno in cui ero a Patusan. Non hanno ancora sostituito le assi. Bel salto, eh? Un istante dopo superammo la foce di un fossato pieno di fango. E questo è stato il mio secondo salto. Avevo un po' di rincorsa e cercai di superarlo di slancio, ma non ci riuscii. Pensavo di lasciarci la pelle. Ho perso le scarpe nella fretta di venirne fuori. E per tutto il tempo pensavo fra me alla disdetta di finire in quel modo infilzato da una maledetta lancia mentre ero impantanato nel fango. Ricordo che stavo male rivoltandomi in quella melma. Voglio dire che avevo veramente il vomito, come se avessi mangiato qualcosa di guasto. Ecco com'erano andate le cose. E l'occasione correva accanto a lui, saltava oltre il fosso, finiva anche lei nella mota, sempre velata. L'essere arrivato così inaspettatamente fu la sola cosa, capite, che gli evitò di essere liquidato subito a colpi di Chris e gettato nel fiume. Era lì, in mezzo a loro. Ma era come avere di fronte una visione, uno spirito, un'apparizione. Che cosa voleva dire? Come dovevano comportarsi? Era troppo tardi per placarlo? Non era meglio ucciderlo senza indugio? E allora che cosa sarebbe avvenuto? Il povero vecchio Alang fu sul punto di impazzire dalla paura e dal tormento di non sapere che decisione prendere. Nel frattempo Jim girava per il cortile, evitato da alcuni e fissato da altri con sguardi di fuoco, ma sorvegliato da tutti e praticamente alla mercé del primo gaglioffo che avesse in mano una scure. Capiva solo che la sua posizione era intollerabile. Si aggirò senza meta, oltre una sorta di piccolo granaio su palafitte, e i suoi occhi caddero sulle assi rotte dello steccato. E allora, dice, di colpo, senza quasi pensare, senza avvertire un briciolo di emozione, si accinse a scappare, come se stesse eseguendo un piano maturato in un mese di riflessioni. Prese a camminare con aria non curante per iniziare la rincorsa. E quando si girò a guardare, vide che un dignitario, con 2 uomini armati di lancia, gli era arrivato vicinissimo e stava per fargli una domanda. Gli schizzò via sotto il naso e volò al di là come un uccello, ricadendo dall'altra parte con un colpo tale che le ossa gli scricchiolarono ed ebbe l'impressione che gli si stesse spaccando la testa. Si tirò su all'istante. In quel momento non pensò a nulla. Tutto ciò che ricordava, disse, era un grande urlo. Le prime case di Patusan erano davanti a lui, a una distanza di 400 metri. Vide il fossato e accelerò quasi meccanicamente. Gli sembrava di veder volare la terra sotto i piedi. Spiccò il salto nell'ultimo punto asciutto. Si accorse che volava attraverso l'aria e si trovò, senza avvertire alcun impatto, piantato in piedi, in una fanghiglia estremamente soffice e appiccicaticcia. Per un po' non si mosse, quindi si alzò, coperto di fango dalla testa ai piedi, e si trovò ritto sulle gambe, convinto di essere l'unico essere umano in un raggio di centinaia di miglia, solo, senza nessun aiuto, senza nessuna comprensione, nessuna pietà da parte di nessuno, come un animale braccato. Le prime case erano a non più di 20 metri da lui, e fu un grido disperato a rimetterlo in movimento, il grido di una donna spaventata che cercava di allontanare un bambino. Riprese a correre in calzini con passo appesantito, così impiastrato dalla melma d'aver perso ogni sembiante umano. Percorse più di metà dell'abitato. Le donne più agili fuggivano a destra e a sinistra. Gli uomini più lenti lasciavano cadere tutto ciò che avevano in mano, restando immobili a guardarlo a bocca aperta. In quella fuga spargeva il terrore intorno a sé. Disse di aver notato bambini che, scappando inorriditi, cadevano sul pancino e scalciavano in aria. Svoltò bruscamente verso una salita fra due case e, dopo aver scalato freneticamente una barricata di tronchi d'albero, a quell'epoca non passava settimana senza che scoppiasse qualche disordine a Patusan, superò una siepe e attraversò un appezzamento di gran turco dove un ragazzino terrorizzato gli scagliò contro un bastone e imboccò barcollando un sentiero per finire fra le braccia di diversi uomini sbigottiti. Ebbe appena il fiato per boccheggiare «Doramin! Doramin!». Ricordava di essere stato trascinato in parte camminando e in parte a braccia alla sommità dell'altura e di essere stato portato in un grande campo centato pieno di palme e di alberi da frutta alla presenza di un uomo imponente seduto su una sedia e circondato da una confusione e un'eccitazione senza eguali. Frugò in mezzo al fango e agli abiti per tirar fuori l'anello e, accorgendosi di essere a terra supino, si chiese chi lo avesse colpito. Ma lo avevano semplicemente lasciato andare e lui, capite? Era finito a terra da solo. Dai piedi dell'altura fu sparato qualche colpo isolato e dai tetti delle case si levarono sordi boati di sorpresa. Ma era salvo. Gli uomini di Doramin stavano barricando la porta e gli facevano bere dell'acqua. La vecchia moglie di Doramin, colpita dal suo misero stato, si era messa in azione e stava impartendo ordini alle ragazze con la sua voce acuta. «La vecchia», disse Jim con voce commossa, «mi trattò come se fossi stato un figlio». Mi avevano messo su un letto immenso, il suo letto personale, ed ella continuò ad entrare e uscire dalla stanza asciugandosi gli occhi e dandomi pacche sulle spalle. Sedeva invariabilmente con i piedi raggomitolati sotto di sé, mentre il vecchio Doramin restava composto, imponente come una montagna in mezzo alla pianura. Apparteneva soltanto alla Nakoda, cioè alla classe mercantile, ma il rispetto di cui era oggetto e la dignità del suo portamento erano sorprendenti. Era il capo del secondo gruppo di potere di Patusan. Gli emigrati da Celebes, una settantina di famiglie che con i propri dipendenti e seguaci potevano contare su circa 200 uomini che portavano il Chris, lo avevano scelto anni prima come loro capo. Gli uomini di questa stirpe sono intelligenti, intraprendenti e vendicativi, ma dotati di schietto coraggio, più degli altri malesi, e insofferenti di ogni forma di oppressione. Formavano il partito avverso al Rajà. Naturalmente i contrasti riguardavano il commercio. Questa era la causa principale delle lotte di fazione che esplodevano all'improvviso e riempivano questa o quella parte della regione di fumo, fiamme, spari e grida. La situazione era resa ancora più complicata da uno straniero giunto lì dopo varie peregrinazioni, un mezzo sangue arabo che per motivi, credo puramente religiosi, aveva incitato le tribù dell'interno, la gente della macchia, come la chiamava Jim, alla rivolta, attestandosi in un campo fortificato sulla sommità di una delle due colline gemelle. Da quella posizione incombeva sulla città di Patusan come un falco su un pollaio e devastava l'aperta campagna. Il Rajà intrigava con lui senza molta convinzione, ma anche alcuni coloni bugi, stanchi del continuo stato di insicurezza, accarezzavano l'idea di una tale alleanza. Gli elementi più giovani, pieni di irritazione, raccomandavano di unirsi a Sheriff Ali e alla sua banda selvaggia per buttare il Rajà Alang fuori dal paese. Doramin stentava a tenerli a freno. Stava invecchiando, e benché il suo prestigio fosse ancora intatto, la situazione gli stava sfuggendo dalle mani. Così stavano le cose quando Jim, uscito come una furia dal recinto del Rajà, comparve davanti al capo dei bugi, mostrò l'anello e venne accolto, per così dire, nel cuore stesso della comunità. Doramin era uno degli uomini più notevoli della sua razza che io abbia mai visto. Per essere un malese la sua mole era immensa e tuttavia non appariva semplicemente grasso, ma imponente, monumentale. Il vasto corpo immobile, abbigliato con ricche stoffe, sete colorate, ricami d'oro, la testa enorme, avvolta in una fascia rossa e dorata. Il volto rotondo, piatto e grande, pieno di rughe e di solchi, segnato da due pesanti pieghe semicircolari che partivano dalle larghe e fiere narici e si chiudevano intorno alle spesse labbra. La gola che pareva quella di un toro, l'ampia fronte corrugata al di sopra degli occhi pieni di fierezza. Tutto questo dava forma a un personaggio che chi vedeva non poteva dimenticare. Era opinione comune che consultasse la moglie sulle questioni pubbliche, ma nessuno, per quanto ne so io, li aveva mai sentiti scambiare una sola parola. Quando erano seduti in pompa magna accanto al varco nella parete rimanevano in silenzio. Il figlio di questi vecchi era un giovane di grande valore. Lo avevano avuto tardi, o forse non era in realtà giovane quanto appariva. 24-25 anni sono parecchi per chi è già padre di famiglia a 18. «Sono come i personaggi dei libri, non è vero?» disse Jim trionfante. «E Dane Warris, il figlio, è dopo di lei il migliore amico che io abbia mai avuto. È quello che il signor Stein chiamerebbe un compagno d'armi. Ho avuto fortuna, per Giove, ho avuto una gran fortuna a capitare fra gente del genere quando ero sul punto di soccombere.» Rifletté per un istante a testa china. E quindi scuotendosi aggiunse: «Naturalmente non ci ho dormito sopra, ma...» Fece un'altra pausa. «Mi ci sono trovato in mezzo», mormorò. «E tutto a un tratto ho capito che cosa dovevo fare». Quando arrivò, la comunità Bugi era in una posizione estremamente critica. «Avevano tutti paura», mi disse. Ognuno temeva per sé, ma io vidi con grande chiarezza che dovevano fare subito qualcosa, se non volevano soccombere tutti, uno dopo l'altro, sotto il rajah o sotto quell'avventuriero, quello sceriffo. E tuttavia capirlo fu il meno. Dopo dovette comunicare e fare accettare il suo pensiero a mente riluttante, penetrando una spessa corazza di paura e di egoismo. Non ci sarebbe riuscito senza il peso dell'autorità di Doramin e il fiero entusiasmo di suo figlio. Quel giovane di grande valore, Dane Warris, fu il primo a credere in lui. La loro fu una di quelle strane, profonde e rare amicizie fra bianchi e orientali, in cui la stessa differenza di razza sembra avvicinare due esseri umani per opera di una simpatia misteriosa. Di Dane Warris la sua gente diceva con orgoglio che sapeva combattere come un bianco. Era vero. Aveva quella specie di coraggio che chiamerei il coraggio della lotta aperta, ma anche una mentalità europea. Se ne trovano di questi individui e si resta sorpresi nello scoprire all'improvviso un modo di pensare che ci è familiare, una visione non offuscata, una tenacia di proposito, un tocco d'altruismo. Piccolo di statura, ma molto ben proporzionato, Dane Warris aveva un portamento fiero, un contegno disinvolto e cortese, un temperamento simile a una limpida fiamma. Il suo viso bruno e i suoi grandi occhi neri erano molto espressivi quando agiva e riflessivi nei momenti di riposo. Era di carattere taciturno. Un'occhiata ferma, un sorriso ironico, una cortesia prudente sembravano indicare grandi riserve di forza e un'acuta intelligenza. Uomini come lui aprono agli occhi degli occidentali, che troppo spesso si preoccupano di aspetti puramente superficiali, le segrete possibilità di razze e terre su cui aleggia il mistero di ere senza storia. E io sono convinto che non solo si fidava di Jim, ma lo capiva. Thank you. La storia, quante volte l'ho ascoltata. Me l'hanno raccontata in marcia, al campo. Mi fece girare la campagna all'inseguimento di un'invisibile selvaggina. Ne ho ascoltato una buona parte su uno dei due picchi gemelli, dopo un'arrampicata fatta negli ultimi 70 metri con le mani e le ginocchia. Jim sedette sul tronco di un albero abbattuto e, tirata fuori la pipa, cominciò a fumare. Si vedevano erba e cespugli nuovi che stavano spuntando, mentre sotto una massa di rovi si scorgevano tracce di scavi. «È cominciato tutto da qui», disse dopo una lunga e silenziosa riflessione. Sull'altra collina, separata da 200 metri di tenebroso precipizio, vidi la linea di un alto steccato annerito e qua e là abbattuto, i resti dell'imprendibile campo di Sheriff Lee. E tuttavia erano riusciti ad espugnarlo. L'idea era stata sua, aveva fatto montare tutta la vecchia artiglieria di Doramin sulla cima di quella collina, due arrugginiti cannoni di ferro da 7 libbre e parecchi cannoncini di ottone, di quelli che ora sono trasformati in moneta, che però, benché rappresentino una ricchezza, sono anche in grado, se caricate scrupolosamente fino alla bocca, di mandare solidi proiettili a una certa distanza. Avevano trasportato sulla cima il vecchio Doramin in persona sulla sua sedia. Lo misero giù sul ripiano a mezza costa e lui rimase lì seduto alla luce di uno di quei grandi fuochi. «Un vecchio straordinario, un vero capo», disse Jim. «Con i suoi occhietti fieri e un paio di enormi pistole a pietra focaia sulle ginocchia, due magnifici oggetti d'ebano montati in argento con otturatori bellissimi e bocche come quelle degli archibugi. Se ne stava lì seduto senza muovere né mani né piedi, con un falò di sterpi che gli bruciava alle spalle e un sacco di gente che correva freneticamente urlando e tirando intorno a lui». Il vecchio più imponente e solenne che si possa immaginare. Lui non avrebbe avuto molte possibilità se Sheriff Lee avesse scatenato contro di noi i suoi sgherri infernali travolgendo i miei, eh? Comunque era salito fino a lì per morire se le cose fossero andate male, senza scampo per Giove. Mi venivano i brividi a vederlo lì, come una roccia. Jim era ritto in piedi, con la radica fumante stretta nella mano, un sorriso sulle labbra e un bagliore negli occhi fanciulleschi. Io sedevo su un ceppo d'albero, ai suoi piedi, e sotto di noi si stendeva la terra, la grande superficie delle foreste, scura sotto la luce del sole, ondeggiante come un mare, con il luccichio dei fiumi sinuosi, le macchie grigie dei villaggi e qua e là una radura, come un'isoletta di luce in mezzo alla massa cupa e dondolante delle fronde. Un'invincibile tetraggine gravava su questo vasto e monotono paesaggio, su cui la luce cadeva come su un abisso. La terra divorava i raggi del sole. Solo in lontananza, lungo la costa, sembrava alzarsi fino al cielo, come un muro d'acciaio, la distesa vuota dell'oceano, piatta e lucida, dietro un velo di foschia. E io ero lì con lui, lassù, nella luce del sole, sulla cima di quella sua storica collina. Dominava quella foresta, quella tetraggine secolare, quella gente antica. Era come una figura su un piedistallo, messa lì a rappresentare, nella sua eterna giovinezza, la forza e magari le virtù di razze che non invecchiano mai, che sono emerse dalle tenebre. Non so perché mi dovesse sempre apparire come un simbolo. Forse da qui nasce il mio interesse per il suo destino. Non so se fosse davvero gentile da parte mia ricordare il fatto che aveva dato una nuova direzione alla sua vita, ma proprio in quel momento esso mi venne in mente in modo molto netto. Era come un'ombra nella luce.